Poscia che io ebbi il mio dottore udito nomar le donne antiche e i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. I cominciai, poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento esser leggeri. Ed egli a me, vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena, e quei verranno. Si tosto come il vento a noi li piega, mossi la voce, o anime affannate, venite a noi parlar, s'altri non niega. Se leggi un Gasma. Allora ragazzi, sia chiaro, siete stati un disastro a leggere Gianni Rodari, e quello se lo leggono i bambini di 6 anni e anche quelli di 5 che hanno avuto le maestre o le mamme entranti e gli hanno fatto imparare a leggere prima che andassero a scuola. Comunque, persino il rappresentante di caffè va a leggere le poesie nei pub e legge il 5 maggio, il 25 di febbraio, il 31 di marzo 1800, millanta. Ragazzi, adesso qualcosa che fin da scuola vi siete letti, e cioè Dante e Manzoni. Claudio, te i caffè li fai pure, perlomeno questa, leggilo con un minimo per prendere 6. Ci proverò, anche se non riuscivo a prendere 6 nemmeno alle superiori. Non si poteva leggere Topolino, ce l'avevi? Ragazzi, qui siamo gente di un certo livello, siete voi che siete di un certo livello parecchio basso. Pertanto, chi comincia? Chi legge chi? Divina Commedia o Promessi Sposi? Scegliere Dante o Manzoni? La scelta è questa: due passi di Dante, Gli Ignavi e Caronte, due passi di Manzoni, Don Abbondio che incontra i bravi, e Fra Cristoforo, quando ancora non era frate e non si chiamava Cristoforo, che sbudella un nobile e alla fine sarà costretto a farsi frate. Chi fa chi? Chi legge cosa? E allora io fo Dante, io farò Caronte. Io farò allora Gli Ignavi e poi fo Cristoforo. Beh, io fo Don Abbondio. È sempre rimasto simpatico a dirlo. Don Abbondio. Abbondio. Abbondio. È buono. È buono. Allora inizio io con Dante Caronte. Posso? Vai! Mamma mia! Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave! Non isperete mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, ho sbagliato? Partiti. Dividiti, staccati. Quella è la mia ignoranza. Dio, ma che cazzo. Partiti prosciutto, fare il pane. E meno male l'era dei nostri fiorentini. Pezzo di me. E tu che s'accosti, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti, verrai a Piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui: Caron, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Quinci fuor... Quinci, fuorquete le lagnose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote, ma quell'anime che eran lasse e nude cangiar colore e dibattero i denti. Ratto che inteser le parole crude, bestemmiavan Dio e lor parenti, l'umana spezie e il loco e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caron demonio, con occhi di bragia, lor accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Ah, Caronte menava all'altra riva le anime dei dannati. Te, dannato, sarebbe meglio se ti menasse Bruce Lee! A me se mi menava mi faceva il culo rosso, come l'ho letto, per le scimmie, Dio. Giù, vediamo se Cristoforo dei Promessi Sposi viene in qualche modo. Io sudavo, te lo dico a leggere. Ora mi spoglio. Giù. Andava un giorno per una strada della sua città, seguito da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo. Altre volte giovine di bottega e, dopo chiusa questa, diventato maestro di casa. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che, tra salario e regali, gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio, giacché è uno dei vantaggi di questo mondo quello di poter odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguito da quattro bravi, s'avanzava dritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavano rasente al muro, ma Lodovico, notate bene, lo strisciava col lato destro, e ciò, secondo una consuetudine, gli dava il diritto. Dove mai si va a ficcare il diritto? Di non istaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa nella quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva, all'opposto, che quel diritto competesse a lui come a nobile e che a Lodovico toccasse d'andar nel mezzo, e ciò in forza di un'altra consuetudine. Però che in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso qual delle due fosse la buona, il che dava opportunità di fare una guerra ogni volta che una testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro, ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso, il signor tale, squadrando Lodovico, a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse, in un tono corrispondente di voce, «Fate luogo!» «Fate luogo voi!» rispose Lodovico, la diritta è mia, co vostri pari è sempre mia. Sì, se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei. I bravi dall'uno e dall'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva a distanza a osservare il fatto, e la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. Nel mezzo, vile meccanico, o che io ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini. No, questo è nel mezzo, sì, vile sì, meccanico. Sì. Nel mezzo, vile meccanico, o che io ti insegno una volta come si tratta con gentiluomini. Voi mentite che io sia vile. Tu menti che io abbia mentito. Questa risposta era di prammatica. E se tu fossi cavaliere come son io, aggiunse quel signore, Ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere cofatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribaldo, disse il gentiluomo voltandosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo mano alla spada. Temerario! Temerario! Gridò l'altro, sfoderando la sua. Io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue. Così s'avventarono l'un l'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero, e anche perché Lodovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che ad ucciderlo. Ma questo voleva la morte di lui a ogni costo. Lodovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera su una guancia. E il nemico principale gli piombava addosso per finirlo, quando Cristoforo, vedendo il suo padrone all'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolta tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista, Lodovico, come fuori di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo, quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga, malconci. Quelli di Lodovico, tartassati e sfregiati anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente, che già correva, scantonarono dall'altra parte e Lodovico si trovò solo, con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla. Guarda, Fumino, direi che hai sbudellato Manzoni. Sarebbe preferibile se frate ti facessi te in un convento dove fanno il voto del silenzio. Ma... vai. Allora, ton abbondio. Vai, abbondio. Abbondia, abbondiare. Per una di queste stradicciole tornava bel bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario, tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e, messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una volta. Ah, vaffanculo, una voltata. Ah, cari. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta, dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi, e così fece anche quel giorno. Il curato, voltata la stradetta e drizzando, come era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per così dire, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno... E l'altro, il piede posato sul... No, non c'è riputon, persi il rigo, Dio buono, bisogna vada qui di fino. Due uomini stavano, l'uno di rimpetto all'altro, al confluente, per così, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori, e l'altro piede posato sul terreno della strada. Il compagno, in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo dove era giunto il curato, si poteva distinguere dell'aspetto, non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quelle attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e golfi calzini. un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone congegnate come in cifra forbite e lucenti, a prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Però mette 882 punti, io sono critico a Manzoni, è difficile, cioè, 45.000 virgole, 65.000 incisi, poi invece di punto mette 2 punti, una bella. Carax, io quel ramo del lago di Como te lo spaccherei in testa. Avanti con Dante, per favore, salviamo almeno questa serata. Io lo spaccherei in testa a quei boia di Manzoni. Giù, vediamo. E Dante mi ci vuole una concentrazione dantesca. Per me si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Facemi la divina potestante, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso l'orme è duro, ed egli a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, vi ho t'ho detto, che tu vedrai le genti dolorose, ci hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi, che la sua mano alla mia pose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui vi sospiri, pianti e alti guai, risonavan per le aree senza stelle, per chi al cominciare ne lacrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e a suon di manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Qui ogni speranza l'ho lasciata io, siete un disastro! Ma io pensavo che a questo spettacolo ci avessero fatto cantare Sarà perché ti amo, non lo so, Su di noi, gelato al cioccolato. Tipo la corrida di... Tipo la corrida. Siamo di... La corrida di paese, io aspettavo una cosa. Detto, la prossima volta, maestro, ci porti Topolino, si prova, si fa paperinicche. Se credevo, guarda, non mi ci mettevo mica a questa avventura. Forse lo spettacolo migliore per quello che vi riguarda è fare come Pupo. Salite sul palco, vi fate un cannone e svenite perdendo i sensi. A quel punto tragedia, applauso e ne uscite come degli eroi. Ma questo si potrebbe fare in Colorado, mica in Italia. Però se il cannone è offerto e si fa sbuata da qualche parte, si può anche fare alla Pupo. Se è offerto da Pupo! Se è offerto da Pupo ci vuole il tubo, i vaporizzatori, che Pupo un bada a spese. Forza ragazzi, bene o male abbiamo finito, andiamoci a mangiare un bel gelato. Ai cioccolato. Dolce e un po' salato. A Ponticino. Lega Dante, lega Manzoni, impari quella capra!